I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. I'd like to publicly acknowledge that I recognize the pain and the suffering that they've gone through because of this. Voglio riconoscere il dolore che ho causato a causa della mia del mio comportamento. But I would ask them to know that I am very sorry. Vorrei chiedere a Hillary, a Chelsea, di perdonarmi. 10 anni fa precisi domani. Di chi è la voce che avete appena ascoltato? Vi darei un 3 secondi per rispondere. 3, 2, 1. Ve la ricordate? Grattate nella memoria, perché non è lontana, anche se questi 10 anni sono di più, sembrano di più, un'altra America. All'epoca 25-26enne che avete ascoltato parlare era ed è Monica Lewinsky. Monica Lewinsky, la protagonista nel 1998 dello scandalo che macchiò indelebilmente la reputazione del presidente Clinton, portò la Casa Bianca a un centimetro, non di più, da un impeachment clamoroso, perché il presidente aveva mentito alla nazione e mise in gioco tutta una serie di personaggi, per non dire di intrecci, per non dire di mondo gossip, per non dire di tombini sollevati, di un'America che si scopriva, di una Casa Bianca che si rivelava ben diversa da quella che si supponeva, no? Austera, altera, seriosa, all'interno della quale invece succedevano numeri da operetta, inseguimenti, vesti sollevate e forse anche spicchi di cuore infranti, ma nel peggiore dei modi. Protagonisti e interpreti, per appunto la giovane steggista 25enne Monica, che arriva alla Casa Bianca e avvicinandosi sempre più al fuoco dello studio ovale e di quel presidente così affascinante ma anche così macio, finisce per scottarsi. La notizia che trapela attraverso uno stranissimo percorso di rimbalzi. Vi ricordate nomi come Linda Tripp, la amica, pensava fosse amica, poi sarebbe diventata la peggiore spietata nemica di Monica, colei che ne raccolse le confessioni, salvo poi fare della bobina della segreteria telefonica dove tutto registrava un bel pacchetto e consegnarlo a un giudice che si chiamava Kenneth Starr. Vi ricordate questo nome? Kenneth Starr, peraltro, è ancora in circolazione sulla scena americana, continua a essere, come dire, un tycoon, uno squalo della legge americana, e in quelle occasioni, insomma, dette fondo a uno degli attacchi più dolorosi e anche più profondi alla presidenza. Arrivò a un passo dal togliere la poltrona da sotto il sedere di Bill Clinton. Oggi l'America si ricorda di quei tempi, si ricorda di quella nazione così diversa da quella di oggi. Happy Times, si scrive spesso in questi articoli, erano tempi felici, anche se c'era stata una guerra, c'erano stati i Balcani che avevano avuto avevano steso, no, un cuono d'ombra sulla presidenza, sul secondo mandato della presidenza Clinton, anche se non c'era stato indubbiamente un mondo diverso che minacciava, che avrebbe poco più tardi minacciato gli Stati Uniti, ovvero il Medio Oriente, l'attacco alle torri. Molti si chiedono che fine abbia fatto Monica Lewinsky. Lei, travolta da questo scandalo, travolta soprattutto psicologicamente da questa pubblicità negativa, da questa immagine così sclerotizzata e anche apparentemente così impossibile, no, da togliersi di dosso. Provate a immaginare, bene o male, il peccato che poteva aver commesso, bene o male, rientra ampiamente, tanto più per una ventenne, no, nella sfera delle grandi imprudenze. Ciò che si trovò marchiato addosso andava molto oltre la lettera scarlatta, no? Tanto per parlare chiaro, insomma, poteva voler dire una vita davanti, no? Una lunga, interminabile vita davanti da vivere con il marchio dell'infamia, per cui le prime mosse furono piuttosto imbarazzate. A un certo punto aprì un laboratorio di designer, di styling, poi provò a fare un po' di televisione alla Fox, poi addirittura cercò di imboccare la via del teatro. Resta tristemente famoso un suo monologo teatrale, poi invece è scomparsa. Sono non meno di 3 o 4 anni che non si hanno tracce di Monica Lewinsky. Chiunque la cerchi non la trova. Pare, si dice, forse si sa che viva nell'Oregon a Portland, una città dove aveva già conseguito la sua prima laurea, ha sicuramente conseguito una seconda laurea a Londra, alla London School of Economics, un istituto di eccellenza. Il titolo della sua tesi è Alla ricerca della giuria imparziale, riflessioni sulle conseguenze della pubblicità prima del processo. Evidentemente una elaborazione anche del lutto, no? Della propria situazione, della propria condizione personale. Pare che lavori nel campo dell'editoria, non si sa se sia sposata, se abbia un compagno, non si sa nulla di lei, perché brillantemente, tanto di cappello a Monica Lewinsky, ha saputo trovare la strada per togliersi, no, da questa luce acida dei riflettori e in un certo senso riappropriarsi di se stessa. Quindi sono passati 10 anni, Bill Clinton continua a essere sotto la luce dei riflettori e Hillary, no, la grande offesa, colei che seppe a un certo punto chiamare il paese, chiamare la nazione a difendere le sue giuste ragioni, sono sempre più sotto la luce dei riflettori. Invece Monica se n'è andata elegantemente, devo dire, nella penombra, e ha trovato il modo di proseguire la sua vita. Erano altri tempi, era un'altra America. Poi c'è un'America che va ancora più indietro. May 31st, 2005, the day America learned the details of one of its biggest secrets. Better known to the public as Deep Throat, Mark Felt, the former associate director of the FBI, revealed he was the man who helped bring down the Nixon administration. Era il 2005, come ricorda questo speaker, quando finalmente venne fuori questo signore. Era già molto anziano, se pensate che è morto ieri all'età di 95 anni. Il suo nome è Mark Felt ed era gola profonda, la gola profonda dell'FBI, che con le sue rivelazioni contribuì a portare alla luce lo scandalo Watergate, quello che avrebbe costretto alla fine alle dimissioni Richard Nixon all'inizio degli anni 70. E è morto anziano, è morto sereno, ne danno notizia i suoi familiari. Ma naturalmente l'America di questo passaggio particolare, no, della transizione, l'America che prova a ripartire non appena il 2009 sarà in rampa di lancio, con terribili fardelli sulle spalle. Pensate che oggi c'è stato l'ennesimo annuncio, Bush ha fatto l'ennesimo annuncio di un bailout, si parla di una cifra di 3.4 miliardi di dollari per salvare l'industria automobilistica, ma in tanti sostengono che sono soldi buttati e che invece di bancarotta dovrebbe cominciare a parlare seriamente la Casa Bianca. Insomma, quell'America prova a guardare dentro se stessa, nella propria coscienza, nei propri ricordi, nella propria memoria, e per l'appunto tutto tutti i giornali americani oggi rievocano il Watergate, i ricordi di questa altra America che, come quella di Monica Lewinsky, è finita a far parte della propria storia. Barack Obama si prepara ad andare in vacanza, le trascorrerà nelle sue adorate isole Hawaii. Ha concluso ieri la formazione del suo gabinetto, della sua squadra amministrativa. È arrivata per ultima una donna, si chiama Hilda Solis, è una deputata democratica della California. A lei va il Dipartimento del Lavoro. Tutti gli incarichi dovranno essere naturalmente confermati dal Senato di Washington. Poi l'intero gabinetto giurerà insieme a Barack Obama. Di Hilda Solis si sa che è di fede cattolica, che è stata in prima fila nelle battaglie in difesa dell'aborto, è una attivista femminile, se non femminista, ha lottato in particolare nelle zone più povere di Los Angeles proprio attorno alla questione delle gravidanze giovanili, anche con programmi di sensibilizzazione nelle scuole. Un altro nome che è stato accolto con interesse e con consenso di natura assolutamente bipartisan. Poi ci sono tante altre storie che ruotano attorno al nome di Barack Obama. Tra l'altro ne parleremo nella seconda parte con un gradito ospite che torna a farci visita, ovvero padre Jonathan Morris. Parleremo di chi è questo Rick Warren, a cui Obama ha assegnato il compito di pregare perché la presidenza sia proficua. Vi ricordo che abbiamo un sito Facebook che si chiama Jefferson Ming Radio 24 e un sito vero e proprio della redazione che si chiama Redazione Jefferson Ming, che sono praticamente costantemente connessi per ascoltare le vostre segnalazioni, domande, per partecipare ai diversi dibattiti che abbiamo messo in circolo. Più tardi leggeremo alcuni vostri interventi e vi ricordo potete mandarci gli sms al 349 238 6666. Go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle up around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in jingle in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Pagina. Dunque, comincia Emiliano che poi diamo un po' di aggiornamenti appunto sui forum aperti. Vai. Allora, rassegna stampa cinese che parte da Paolo. Uh-huh. Mi sembra giusto insomma aggiornare i nostri ascoltatori, anche perché sempre, il successo sempre di Paolo è infinito, ormai senza limiti. In realtà ci è appena arrivata una mail in redazione. Paolo è in contatto con un ascoltatore che attraverso i potentissimi mezzi di Jefferson Ming ha chiesto a sua volta di mettersi in contatto con Paolo. Forse c'è uno spiraglio sul lavoro. Non vogliamo insomma portare male le scaramanzie non diciamo nulla, però insomma i contatti sono avviati. Paolo ci fa sapere, è una mail che è arrivata alle 16.15 mentre ci sta ascoltando dalla lontana Cina, immagino via streaming, ebbene insomma ci fa sapere che i contatti sono avviati e quindi forse già la settimana prossima vi diremo di più sul nostro grande, immenso Paolo. La questione, una delle questioni che ha attraversato questa settimana in modo scandaloso e anche un po' boccaccesco, no? La scarpata, le scarpe tirate a Baghdad all'indirizzo del presidente uscente George W. Bush da questo giornalista iracheno. Dunque c'è una notizia che riguarda il caso e sarebbe che il giudice istruttore che sta giudicando il giornalista, si chiama Muntadar Al-Zaidi, fa sapere che l'autore del gesto sembra, queste sono le sue parole, virgolettato, sembra sia stato picchiato, è una voce che ricorre ormai da diversi giorni. Il giudice ha confermato che il giornalista avrebbe scritto una lettera al premier Al-Maliki chiedendo perdono per il suo gesto. Sull'argomento noi da qualche giorno abbiamo aperto un forum sul sito di Facebook, vi leggo qualche intervento. Marco scrive: al di là dei meriti o demeriti di Bush, mi rattrista vedere un presidente americano trattato a scarpe in faccia davanti alle TV di tutto il mondo. E questo, devo dire, Emiliano, è il parere di una buona metà degli ascoltatori. Direi parere condivisibile. Sì, condivisibile e sorprendente a fronte poi invece delle antipatie che sembra magnetizzare Bush ormai da parecchio tempo a questa parte. Alberto scrive: non vorrei essere nei panni di Bush, non ho mai visto un presidente così ridicolizzato, ma tant'è la sua visione del mondo, oserei dire infantile, che gli si è ritorta contro e si allontana dalla Casa Bianca letteralmente a scarpate. Ancora vediamo un altro vostro intervento. Stefano scrive: se Bush fosse un uomo e un vero presidente che si vanta di aver portato la democrazia in Iraq, avrebbe impedito che quell'uomo fosse minimamente toccato e magari l'avrebbe invitato a prendere un tè a fare due chiacchiere. L'altra guancia George W. Lui in realtà ha minimizzato in sede, sì, è passato sopra, sì, in tutti ha cercato i sensi di minimizzare scarpa. Anche perché conveniva a quel punto fare così. Tanti poi invece che dicono che comunque il gesto è stato in un certo senso il prodotto di una questione mal gestita fin dall'inizio. A me non rattrista vedere un presidente americano trattato a scarpe in faccia, a me rattrista Bush, mi riempie di indignazione, lui che è il simbolo del fallimento di questi ultimi 10 anni occidentali, scrive Rosanna. Ma vi ricordate le posizioni su Kyoto? Vi ricordate quando ficcava nella testa degli americani che l'America non può rinunciare al suo tenore e stile di vita? Vi ricordate la faccia inebetita all'annuncio delle Torri Gemelle? Sarà poi comunque interessante vedere se il tempo sarà gentiluomo con Bush, ovvero se tra qualche anno magari i giudizi così sferzanti e così complessivamente negativi nei confronti di Bush si stempereranno con appunto il trascorrere del tempo. Invece dalla Cina giunge una bruttissima notizia che viene riportata in Italia grazie ad Asia News, questa importante e preziosa agenzia guidata da Bernardo Cervellera, che ha sempre gli occhi aperti e vigili sulla Cina, che ci fa sapere che il governo cinese non paga le cure per i bambini ammalati con il latte alla melamina. In realtà, da quando a metà settembre era scoppiato lo scandalo del latte contaminato alla melamina, il ministro della sanità cinese aveva annunciato con una certa enfasi che esami e cure sarebbero stati gratuiti per tutti i bambini sotto i 3 anni malati appunto contagiati da questo latte pericolosissimo alla melamina. Invece poi si è scoperto da un comunicato di fine ottobre che le autorità sanitarie dell'Henan, che è la zona più colpita, hanno invitato i centri medici provinciali a non offrire cure gratuite, che dovrebbero quindi essere solo effettuate dagli ospedali municipali e della contea. Le spese sono naturalmente enormi perché, pensate, risultano malati lievemente o anche gravemente circa l'1,3% degli oltre 22 milioni di bambini che sono stati esaminati fino al 30 novembre, quindi siamo ad una cifra sui 200-300 mila casi. E gli ospedali, nonostante questo, continuano ad erogare in molti casi gratuitamente le cure, però fanno sapere insomma che non si può andare avanti così per lungo tempo, quindi speriamo che ci sia un intervento a livello nazionale per risolvere questa emergenza che prosegue. conviene fare rumore in questi casi, insomma, di solito qualche effetto si raggiunge. Ultima notizia, sempre scandali americani degli ultimi giorni. Blagojevich, Rod Blagojevich, il governatore che tutti vorrebbero che se ne andasse. Blago, ma resta ben saldo sulla sua poltroncina. Il suo legale avrebbe detto che le intercettazioni telefoniche dell'FBI che incastrerebbero Blago, accusato di corruzione, sono state ottenute illegalmente e pertanto non sono valide. Un po' tutto il mondo è paese. Blagojevich, arrestato con l'accusa di aver cercato di vendere per tornaconto personale il seggio lasciato vacante da Barack Obama, dovrebbe affrontare un provvedimento di impeachment, ma i tempi si stanno allungando. Il legale ha detto che Blagojevich non vuole lasciare l'incarico, ha detto che vuole combattere, che non ha commesso alcun reato, e intanto la posizione del capo dello staff di Barack Obama, Rahm Emanuel, non smette di aggravarsi, ma anche su questo avremo modo di tornare a parlare. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Once again, as in olden days, happy golden Casa Bianca. Il passaggio di consegne. Sì, sì, adesso ci arriviamo, ma prima qualche sms arrivato da voi, molto, molti e molto stimolanti. Prima di tutto segnalo quello di Giacomo, che devo dire individua lucidamente una tendenza, come dire, trasversale, vogliamo dire globale addirittura. Dice, scrive, la vera moda del 2008, l'eroico rifiuto di dimettersi nonostante schiaccianti evidenze che lo richiedono. Cita Blago, Bassolino, cita Villari e cita Isaiah Thomas. Questa è una grande citazione, molto molto molto colta, il coach dei New York Knicks, che andandosene ha reso di nuovo vivi i nostri amici blu arancioni. È un dato di fatto, anche se su Blago abbiamo una novità. Invitiamo carta e penna, prendete, cari ascoltatori, o comunque fissatevi nella memoria che se non avete niente di meglio da fare attorno alle 9 di sera, tutte le televisioni che sono che si ricevono via satellite, via padellone, anche nelle nostre case, le televisioni americane come CNN, Fox News e quant'altro, parla Rod Blagojevich. Ci sarà un incontro stampa, lui promette addirittura di vuotare il sacco, credo sia uno spettacolo imperdibile, davanti alle telecamere e ai giornalisti con il taccuino affilato. Ricordatevi, alle 9 di stasera capiremo veramente chi è Blago. Poi molti veramente, voglio essere proprio severo, voglio sorvolare sui messaggi che avete scritto su Monica Lewinsky. Non condivido minimamente le nefandezze di cui avete riempito la casella, siete evidentemente incorreggibili, insomma, come ho fatto tutta quella chiacchierata per dire di come ha saputo ricostruire una vita, ma mi sembra in Italia ancora ci sia del lavoro da fare, Però adesso invece stiamo al presente e ci occupiamo di una cosa che abbiamo messo in circolo già ieri, perché è una notizia che ci ha colpito, ci ha interessato, la riteniamo anche lo specchio di una questione più generale, ovvero questo invito che Barack Obama ha rivolto al reverendo Rick Warren per pronunciare il discorso religioso, l'implorazione in favore della presidenza che il 20 gennaio andrà a ricoprire appunto Obama a Washington, sulle scale del Campidoglio. Abbiamo aperto un forum sull'argomento, ci sono stati interventi interessanti da parte vostra. Cito Annalisa che dice: a me sembra che Obama abbia capito che gli serve anche l'aiuto divino per il compito che va a affrontare. Sono curiosa di vedere non le chiacchiere ma i fatti che il nuovo presidente si accinge a fare per rimettere in piedi l'America. Scrive Marinella: Obama vuole portare all'inaugurazione un reverendo social conservative di primo acchito. Da italiana che considera la politica una cosa laica, mi verrebbe da dire alla faccia il cambiamento. Poi viene il dubbio che mi sfugga qualcosa di fondamentale nella mentalità americana. Luca scrive: è prima di tutto una mossa d'immagine, una vera e propria cerimonia che richiama alla mente la celebrazione del potere nell'Europa medievale. Insomma, sostiene che si è mosso con sapienza. Lago Diego scrive: per quanto riguarda il fatto che Obama abbia portato con sé questo referendum per benedire il mandato, non ci trovo nulla di male. Abbiamo chiamato per avere un autorevole parere un nostro caro amico che si chiama Jonathan Morris, è un legionario di Cristo ma è anche un uomo di comunicazione, lavora come corrispondente della Fox dal Vaticano, ha scritto tra l'altro un bel libro intitolato The Promise che vi abbiamo presentato qualche tempo fa qui in trasmissione, non lo sentivamo da un po' di tempo, lo saluto con piacere, ciao Jonathan. Grazie Stefano, auguri a tutti. Auguri anche a te. Due domande per te Jonathan, prima di tutto ci puoi spiegare con la tua sapienza dell'ambiente, non so come dire, chi è questo Rick Warren? Presentacelo. Ah, come no, ma Rick Warren adesso è il pastore protestante con la voce più, diciamo, rispettata, anche più forte nell'ambito americano, cioè lui adesso rappresenta i social conservatives, senz'altro di forma, io direi anche molto di modo molto positivo. Quindi il fatto che Obama ha scelto lui per dare questa benedizione nel momento più importante adesso della sua vita politica, senz'altro è stato un movimento molto astuto, furbo, conveniente, senz'altro, perché adesso tanti social conservatives che vedono questo simbolo, no, dei loro valori, senz'altro sarà una cosa positiva. Ma adesso c'è anche una parte del Partito Democratico, soprattutto quelli che promuovono il matrimonio gay, che stanno dicendo: ma come mai che hai scelto questo Rick Warren, che è stato anche una voce contro del movimento di matrimonio gay, che adesso a California questa Proposition 8, no? L'ha bloccato, certo. Quindi Rick Warren ha parlato fortemente contro, certo, no, chi promuove il matrimonio gay. Quindi Jonathan, sentiamo un momento Obama cosa ha detto ieri per provare a rispondere a queste critiche. It is important for America to come together, even though we may have disagreements on certain social issues. And I would note that couple of years ago. In pratica, Barack Obama si rifà al suo primo dettato, a una delle sue prime proposte agli americani quando si candidò per la presidenza, la proposta della casa riunita, no? Bisogna prima di tutto sorvolare, essere capaci di superare le differenze e in ogni caso dialogare, no? Jonathan, a questo punto tu, dal tuo punto di vista come sacerdote, come americano, dammi un giudizio personale su questa mossa, su questa cosa che, come dicevi giustamente, ha in un certo senso sconcertato, in certi casi anche fatto arrabbiare tanti stessi elettori di Barack Obama. Sì, ma io sono contento che lui abbia scelto Rick Warren. Rick Warren è un amico mio personale, una bravissima persona, ma io anche mi domando, no, che questo sarà un simbolo, no, di portare tutto insieme, di stare insieme come paese, come nazione, o sarà piuttosto un vero dialogo, no? E ovviamente un simbolo, no? Questo non è la unione vera, perché ovviamente Obama non è d'accordo con Rick Warren su punti importantissimi come l'aborto, come il matrimonio gay. Quindi credo che è stato, come ho detto, è una scelta molto conveniente, furba, astuta, ma non dico che sia un segnale che Obama davvero vuol dialogare su questi temi. Credo che è un simbolo politico soprattutto. Va bene, Jonathan, noi ti ringraziamo. In realtà non c'è niente da fare, una sensazione di una qualche contraddizione, non so come dire, in un certo senso Obama quel giorno è il protagonista, la sua presidenza è quella che comincia, la sua presidenza, che uno sia o non sia d'accordo, ha dei contenuti, no? Ha dei propositi ben precisi. Esporre come dire, questa diversità è sicuramente interessante da un punto di vista del dialogo, può essere come dire, poco gradito per esempio a tante persone che di questioni di questo genere vivono sulla propria pelle le risultanze o gli sviluppi. Comunque continua sul nostro sito Facebook il dibattito a riguardo. Jonathan, da parte di Jefferson Ming, i migliori auguri di buon Natale, ci vediamo nel 2009 naturalmente. Grazie Stefano, e auguri di Natale a tutti anche gli ascoltatori. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've got no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Allora, vediamo qualche contatto da parte vostra. Un messaggio dice: Obama vuole l'orazione di insediamento da un reverendo, una cosa buona. Immaginate una cosa del genere in Italia, che sarebbe accaduto dai laicisti italici. No, ma però, caro ascoltatore, qui non è che è in discussione l'orazione, l'invocazione in coincidenza con l'insediamento del nuovo presidente, che è una regola praticamente assoluta, insomma, e invocazioni di questo genere poi le fanno in America a ogni piè sospinto, le facevano per esempio all'inizio di ogni giornata, per esempio, delle convention, no? Ma le fanno anche all'inizio di una manifestazione che in una città raccoglie, non so, i lavori di un convegno. Arriva puntualmente la richiesta, no, di benedire il lavoro che si va a svolgere. Qui è la scelta del personaggio, che è un personaggio di grandissima popolarità, il che è una cosa di chiaro posizionamento politico, se mi passate l'espressione, e al tempo stesso simbolo di un ponte, no, che Obama, come ha confermato ieri, vuole lanciare verso chi su molti argomenti non la pensa come lui. Sul sito di Facebook di Jefferson Ming Radio 24 arriva Maurizio, un nostro fedele ascoltatore, che ci segnala la vignetta sull'internet National Herald Tribune di Chapat: l'anno prossimo Bush sarà il Nobel della pace con motivazione, due punti aperte virgolette, per essersi tolto dalle scatole nel 2009. Ecco, continuiamo. Poi ci sarà, secondo me, una Bush nostalgia, una nostalgia Bush, o forse no. Claudia dice: che bell'accento ha il padre Jonathan Morris, sembra quasi la Palin. Di dove è originario? Adesso chiedo soccorso al di là del vetro. A me sembra che sia del Michigan. Adesso Emiliano tra poco me lo farà sapere. A me sembra sia del Michigan, che il suo accento ricordi quello della Palin. Non so se... Parliamo di Cina, parliamo di fotografia, parliamo di una mostra fotografica che va in scena a Casalecchio di Reno, alla Biblioteca Comunale Cesare Pavese, Casa della Conoscenza. Il titolo è Cina in movimento, immagini da un paese che cambia, fotografie di Paolo Lambertini, fotografie in bianco e nero di una Cina, non so come dire, normale, no? Lontana dai bagliori olimpici, che Paolo ha trovato sulla strada, tra l'altro, di un proprio viaggio di nozze. Paolo, fotografo bolognese, 30 anni, lo abbiamo cercato e lo abbiamo in linea ora qui a Jefferson Ming. Buon pomeriggio, Paolo. Ciao a tutti. Allora, prima di tutto toglimi una piccola curiosità tecnica, così da appassionato. Perché hai deciso di fotografare la Cina, no? Patria dei colori, in bianco e nero? Solitamente io quando faccio reportage li ho sempre fatti in bianco e nero, quindi diciamo che ho mantenuto lo stesso stile che ho utilizzato per tutti i reportage precedenti. Mm-hmm. E poi quando sono andato in Cina c'era la grossa indecisione se se lavorare su pellicola o sul digitale. Era un periodo in cui avevo ottenuto ottimi risultati sul bianco e nero anche col digitale, quindi sono andato col bianco e nero col digitale. Ti è costato qualcosa? Cioè, hai avuto nostalgia dei colori o al lavoro fatto, insomma, senti che la Cina può essere raccontata per immagini degnamente anche usando il buon vecchio bianco e nero? Sì, sono stato molto soddisfatto, anche perché non sono un fotografo di paesaggi nelle foto che ho fatto ci sono quasi sempre personaggi, fotografo la gente che incontro per strada, e secondo me alla fine sono soddisfatto, si presta molto bene a questo tipo di fotografie. Tu hai fatto questo bel viaggio in Cina, andando tra l'altro, oltre che naturalmente nelle principali metropoli, anche in altre zone della Cina, dove appunto, come dicevamo in apertura, si trova, no? Si trova per strada la Cina normale, quella non raccontata dai grandi magazine o dalle televisioni, e mi sembra di capire che poi in un certo senso è quella che forse più ha attirato la tua attenzione, è così? Beh sì, La Cina, essendo un paese pieno di contraddizioni e di contrasti, si presta molto bene per fare reportage. Questi sono elementi che fotograficamente molto interessanti. E è stato molto facile mettere in relazione il più grande contrasto attuale, cioè la tendenza verso il futuro, la modernità, e poi invece anche tutte le campagne che continuano ad essere popolate da 800 milioni di persone, certo. E quelle le ho trovate soprattutto nella zona dello Yunnan, Sichuan e Yunnan. Trovare la modernità chiaramente è la cosa più semplice, perché il mio villaggio è partito da Pechino, e il trovare palazzoni pieni di condizionatori o simboli della Coca-Cola, insomma, è una cosa molto semplice. E poi piano piano mentre ci spingevamo verso la zona del Tibet, anche se non siamo arrivati proprio in Tibet, cambiava paesaggio, cambiava anche le persone, e mettere in relazione questi due aspetti è stato molto interessante. Io ribadisco che la mostra Cina in movimento è aperta fino al 6 gennaio, si è inaugurata lunedì, aperta fino al 6 gennaio, quindi tutte le feste alla biblioteca comunale di Casalecchio di Reno. Tu Paolo sei stato anche nel Sichuan, la zona, sì, dove poi si sarebbe abbattuto il terribile terremoto, ci sei andato prima, quindi in un certo senso hai colto immagini ancora di una serenità che poi è stata messa duramente a repentaglio. Beh sì, noi siamo passati anche da Chengdu, che è stato praticamente l'epicentro, e in mostra ci sono diverse foto di alcuni templi, alcuni edifici di Chengdu, e ho provato anche a fare delle ricerche per capire che fine avessero fatto, e purtroppo non sono riuscito a arrivare a una conclusione, però sarebbe insomma interessante sapere. Poi la prima mostra che ho fatto è stata a giugno, sempre c'è la stessa mostra, girata prima a giugno, poi a dicembre, adesso a Casalecchio, era proprio pochi mesi dopo il terremoto, e mentre preparavo la mostra vedevo queste immagini e non ero certo che certi edifici ci fossero ancora. Certo. Vabbè, proviamo a fare per concludere il solito esperimento così da prestigiatori. Vorrei che tu mi individuassi fra quelle che hai messo in mostra a Casalecchio una foto in particolare, una a cui sei legato in modo speciale, provassi in un certo senso a raccontarcela così con la voce. Beh, sicuramente quella alla quale sono più affezionato è quella della copertina, quella della locandina della mostra, che è stata scattata nello Yunnan all'uscita di una scuola di ragazzini presumibilmente di 11 anni, 12 anni, mm-hmm. E ho visto arrivare questi quattro ragazzini in una vestiti, diciamo che... I quattro moschettieri, sembra. Esatto, sì, raffigurano, riassumono perfettamente tutta la Cina moderna, secondo me, perché hanno visi chiaramente anche chiaramente orientali, non di Pechino, ma delle zone più centrali. E poi hanno, c'è un ragazzino che ha la maglietta del Liverpool, certo. Un altro che ha la maglietta della Puma, certo. E poi loro mi hanno visto, io quando fotografo quando faccio reportage non uso quasi mai il teleobiettivo, mi piace fotografare con un grand'angolo per farmi vedere dalla gente che li sto fotografando, e questo c'è da dire che probabilmente queste fotografie qui non sarei riuscito a farlo, perché ho incontrato una disponibilità incredibile della gente nei confronti della macchina fotografica, e quando mi sono appostato per fotografare questi ragazzini loro mi hanno guardato con faccia da sfida, e quello è stato... È uscito questa foto che è davvero davvero un capolavoro. Vi ricordo ancora il nome della mostra, Cina in movimento, il fotografo è Paolo Lambertini, si vede a Casalecchio Reno fino al 6 gennaio. You chipmunks, ready to sing your song? Nicola dice: vi ricordate che avete messo Let It Snow prima, durante le primarie dell'Iowa, per dire che nevicava? Beh, c'è l'America che, se guardate sui siti meteorologici, è letteralmente coperta di neve. Grazie a Nicola comunque. Correggo, è Jonathan Morris, non è del Michigan, è dell'Ohio. Questo lo dico a Claudia, che si è così un po' invaghita dell'accento. Peraltro anche l'uomo merita un'occhiata, per carità, reverendo. Jefferson Ming, Stefano Pistolini, redazione Milano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Pietro Lacorte a Milano, Jefferson Ming è radio24.it, la mail su Facebook, redazione Jefferson Ming. oppure Jefferson Ming Radio 24. Andiamo in replica stasera alle 9, ci sentiamo lunedì attorno alle 4, come sempre da Radio 24.